Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I can eat my dinner in a fancy restaurant. La canzone indimenticabile, incomparabile, come la canzone stessa dice, Nothing Compared to You. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché inizio con questa canzone di Sinéad O'Connor? Perché è data per dispersa, per scomparsa. Sono tutti molto preoccupati per la cantante irlandese che l'8 dicembre prossimo dovrebbe fare 50 anni, insomma ne è ancora 49, perché già diverse volte più recentemente ha minacciato il suicidio. E siccome è scomparsa domenica, questa domenica 15 maggio, in sella alla sua bicicletta per le strade di Chicago, da allora non si sa più niente di lei. I vicini soprattutto sono preoccupati, insomma hanno subito chiamato la polizia e quindi temono il peggio. Speriamo di no, speriamo che sia l'ennesima volta, che sia un pochino così, diciamo, dispiaciuta per qualche motivo, un po' disorientata, ma che ritorni. Se qualcuno, insomma, se la stessa Sine dovesse sentire questa canzone, mi raccomando, torna a casa, adesso lo dico scherzosamente, ma con sentimento. Noi parleremo però di molte altre cose, ricominciando la settimana di Effetto Notte, perché ci occuperemo di un'altra, diciamo, un altro intervento del Papa nel segno del suo papato veramente innovativo. Abbiamo visto soltanto la settimana scorsa si parlava dell'accesso al diaconato per le donne, anche se non è il sacerdozio femminile, però già una grossa apertura. Poi parleremo di Libia, perché c'è stato un vertice importante, vediamo se è stato solo interlocutorio o no, però sono state tratte delle conclusioni. E poi molti altri argomenti, tra cui questa specie di retromarcia, dietro fronte, come hanno titolato i vari siti, del ministro dell'interno Alfano, che aveva proposto, vi ricordate, proprio sul finire della scorsa settimana, di votare anche il lunedì, di tornare a votare per le elezioni amministrative, ma anche per il referendum, eccetera, sia la domenica che il lunedì, perché da qualche tempo, se ricordate, con il governo Letta si era detto no, per risparmiare, sono milioni di risparmi, facciamo che ci sia un election day, si voti un giorno soltanto, cioè la domenica. Alfano aveva proposto di votare anche lunedì, c'erano stati pareri favorevoli, pareri contrari, invece adesso è stato deciso durante il Consiglio dei Ministri di oggi che si voterà solo di domenica. Proprio su questo punto volevo conoscere un po' il vostro parere, nel senso che quelli favorevoli a votare anche lunedì dicevano questo è una iniziativa democratica, può contrastare l'astensione, nel senso che qualcuno può votare la domenica, ma se fosse andato via la domenica al mare, in montagna, in gita, eccetera, può poi votare il lunedì. Mentre gli sfavorevoli, i detrattori di questa iniziativa del lunedì, avevano detto si risparmiano più di 100 milioni. Poi Alfano oggi ci ha tenuto a dire no, in realtà per le comunali si risparmiano 5 milioni, sarebbero spese in più 5 milioni, e per il referendum invece 18 milioni. Insomma, molto amareggiato. Voi avreste preferito votare anche il lunedì? Così come parere, mi interessa sapere se ritenevate giusta questa posizione di Alfano oppure di chi dice ha vinto oggi il buonsenso. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, 349-238-6666, oppure lo sapete che le vostre riflessioni potete scriverle sempre comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, mentre come al solito vi riassumo la giornata. Elezioni e referendum, per l'appunto Alfano fa dietro fronte per quelle che definisce polemiche strumentali, dunque si voterà solo domenica. Il vertice sulla Libia, nessun invio di soldati nel paese nordafricano, ma un alleggerimento dell'embargo sulle armi. L'Italia pronta ad addestrare le truppe di Tripoli. Il richiamo del Papa ai Vescovi, rinunciate ai beni non necessari e bruciate sul rogo le ambizioni. Scontro sulle adozioni, il ministro della Giustizia Orlando risponde al ministro Costa, i giudici sono autonomi nell'interpretare le norme. Roma, Paola Basilone è la nuova prefetta della capitale. L'ennesimo femminicidio, a Firenze un uomo ammazza l'ex moglie con 30 coltellate perché lo aveva lasciato e poi si suicida. Assalto a un portavalori sulla A14, spari auto date alle fiamme, i rapinatori sono in fuga. Editoria contro OPA su RCS, soci anti-Cairo fanno fronte con Bonomi. Calcio scommesse, assolto Conte, scagionato anche il suo vice, il CT della Nazionale commenta è la fine di un incubo. Partiamo quindi dalla marcia indietro del ministro dell'Interno Alfano sul voto per le elezioni. Giovedì scorso aveva annunciato che avrebbe proposto di tornare a votare lungo due giorni, cioè domenica ma anche lunedì, ma oggi il Consiglio dei Ministri dell'iniziativa non è andata in porto. Avevo proposto l'estensione del voto sia a lunedì di questo turno amministrativo che a quello della consultazione referendaria e ovviamente per tutte le elezioni a seguire, aveva spiegato Alfano, a un'istanza che mi veniva rappresentata, dice, ho voluto seguire un'istanza che mi veniva rappresentata da più parti, cioè di ampliare la partecipazione al voto e ridurre i rischi di astensione dalle urne. Dice però, viste le polemiche che ci sono state, a questo punto ho ritenuto opportuno lasciare le cose così come stanno. Per quanto riguarda i numeri, dice, anche qui sono state polemiche pretestuose, perché non si sarebbero spesi in più i 120 milioni di cui si parlava, ma circa 5 milioni in più di euro per le amministrative e circa 18 per il referendum. Poi ne parleremo più ampiamente, ma chiedo anche a voi qual è il vostro parere. Siete contenti che si voti solo domenica o avreste preferito un'estensione a lunedì? 349-238-6666 per WhatsApp, SMS oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Alfano poi ha parlato anche di una nomina importante, dice, ho proposto la dottoressa Paola Basilone come nuovo prefetto di Roma. La dottoressa Basilone, che vanta un brillante curriculum, ha ben operato a Torino e altrettanto saprà fare a Roma in un momento così delicato, e Basilone prenderà il posto di Franco Gabrielli, che giovedì si insedierà nel ruolo di capo della polizia. E sulla politica c'è stato scontro sul tema delle adozioni. Il ministro della giustizia Orlando, rispondendo davanti alla commissione giustizia a domande sulla legge relativa alle adozioni, alcune delle quali hanno fatto riferimento anche alla stepchild adoption, quella che riguarda le coppie dello stesso sesso, ha detto: non è nostro compito dire come devono intervenire i magistrati con le sentenze, siamo noi politici a chiedere con la legge ai giudici di svolgere la loro attività interpretativa, che non è comprimibile. Sentiamolo. Non ci può essere in qualche modo una definizione a priori per tutti i casi che emergono, perché mettendo al centro il tema della continuità affettiva del minore e mettendo al centro il minore, gli si chiede al giudice di tutelarlo nella situazione concreta. Quindi non c'è una ricetta che possa valere una volta per tutte. E non si può neanche pensare che la legge in qualche modo restringa a prioristicamente il campo attraverso il quale questo riconoscimento dell'interesse del minore avviene. Quindi ribadisco, siamo noi legislatori a chiedere ai giudici con la legge di svolgere un'attività di interpretazione che non è comprimibile in un campo come questo. E poi il vertice sulla Libia, che è stato convocato da Italia e Stati Uniti a Vienna. Il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, sottolineando che la comunità internazionale a Vienna ha riconosciuto che il governo Sarraj sarà il protagonista di questo processo di stabilizzazione, ha spiegato il messaggio che arriva oggi da Vienna è che la Libia rimane unita, non si alimentano divisioni, i libici combatteranno il terrorismo e non ci sarà un intervento straniero di terra. Riconosciamo la necessità di creare rapidamente un comando unificato libico per coordinare la lotta a Daesh. Lo si legge nel documento finale della conferenza sulla Libia che si è tenuta nel pomeriggio a Vienna, presieduta dal ministro degli esteri Paolo Gentiloni e dal segretario di Stato USA John Kerry. A rappresentare il governo di unità libico, il presidente nominato dall'ONU al-Sarraj, che da marzo scorso cerca di rafforzare la sua autorità nel paese. Per riuscirci chiede per il suo governo un alleggerimento dell'embargo sulle armi, richiesta questa che trova disponibile la comunità internazionale. Cercheremo di evocare l'embargo, ha infatti dichiarato John Kerry nella conferenza stampa congiunta. Niente soldati occidentali però contro l'ISIS in territorio libico, come confermato dal ministro Gentiloni a Sky TG24. La Libia rimane unita, non si alimentano divisioni, si combatte il terrorismo da parte dei libici, non con interventi sul terreno di forze straniere, e aver deciso che questo lo si fa tenendo insieme le diverse componenti, ma attorno al governo di accordo nazionale, credo che sia un risultato importante. L'Occidente ha il dovere di aiutare la Libia, le parole di al-Sarraj, secondo il quale il nemico peggiore nel paese africano non è rappresentato dall'ISIS ma dalle divisioni interne che solo l'unità nazionale permetterà di superare. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi scenderemo più nel dettaglio, appunto, per capire dove si è arrivati concretamente a questo punto, che cosa si farà. E siamo anche a richiamo del Papa ai Vescovi. Francesco oggi ha aperto l'assemblea dei Vescovi italiani, li ha bacchettati raccomandando loro di rinunciare ai beni non necessari, spingendoli a bruciare sul rogo le ambizioni. Un altro intervento, quindi, vi dicevo, di Papa Francesco nel segno di rinnovamento della Chiesa, di cui parleremo più ampiamente dopo. Siamo intanto all'economia. Due vicende oggi hanno agitato i mercati, il futuro di RCS e di Banca Popolare di Milano. Cominciamo allora dalla controfferta al piano Cairo. Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata la contromossa all'offerta pubblica di scambio su RCS. Sentiamo Laura Galvagni del Sole 24 Ore. La controfferta è guidata da Andrea Bonomi attraverso Invest Industrial ed è tutta in contanti. La proposta, in particolare, valorizza ciascun titolo RCS 0,7 euro d'azione contro gli 0,52 messi sul piatto da Cairo ed è superiore del 16% alla chiusura del titolo di venerdì 13 maggio. L'OPA verrà lanciata da una newco controllata da Bonomi al 45% e partecipata pariteticamente per il restante 55% da Diego Della Valle, Unipol SAI, Mediobanca e Pirelli, già soci di RCS e pronti a confinire le loro azioni che rappresentano il 22,6% del capitale del gruppo editoriale all'offerta. L'esborso massimo previsto è di 282 milioni, dei quali circa 165 milioni saranno a carico di Bonomi. La Newco ha inoltre già deliberato la propria disponibilità a sottoscrivere un futuro aumento di capitale di RCS fino a 150 milioni, denari che verranno utilizzati per sostenere lo sviluppo della società. RCS ha chiuso le contrattazioni in rialzo del 16,55%, allineandosi al prezzo dell'offerta. A questo punto non resta che capire se Cairo preparerà o meno nuove contromosse. Intanto, Consob, dopo i recenti sviluppi, ha avviato le opportune verifiche sui movimenti del titolo RCS nelle ultime settimane. E adesso un affare da mezzo miliardo, il piano di aggregazione tra BPM e il Banco Popolare. Un utile al 2019 di oltre un miliardo di euro, 4 milioni di clienti e una quota di mercato superiore all'8%. La fusione tra BPM e il Banco Popolare, attesa per fine anno, darà il via al terzo gruppo bancario italiano, come spiega il numero uno dell'istituto milanese Castagna. Se guardiamo solo il nord Italia, siamo a un'incollatura di quota di mercato dalle due grandi banche italiane. L'operazione costerà mezzo miliardo e creerà sinergie per 460 milioni, attesa una politica di dividendi remunerativa con un payout al 40% e la creazione di un'unità dedicata alle sofferenze. 8 miliardi saranno cedute. Capitolo più delicato, gli esuberi, previsti 1.800 su base volontaria da attivare con il fondo di solidarietà e la riallocazione di circa 800 dipendenti, così Saviotti del Banco. Ci sono molte richieste di aderire al fondo di solidarietà, ci sono possibilità di incentivi all'esodo e noi, d'accordo con le organizzazioni sindacali, faremo quello che è possibile fare per accontentare tutti. Prevista anche la chiusura di circa 330 filiali. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizie ancora dall'estero. Stati Uniti, durante la sua campagna elettorale per le primarie di domani in Kentucky, Hillary Clinton ha promesso che suo marito Bill, ex presidente, sarà incaricato di rivitalizzare l'economia se lei sarà eletta alla Casa Bianca. Dice perché lui sa come farlo. L'ex First Lady continua quindi a scommettere su Bill, nonostante resti controverso per gli analisti se il marito le sia più di aiuto o più di ostacolo. E sull'altro fronte, dopo le donne, dopo i rapporti con Londra, nuova polemica per il candidato repubblicano Donald Trump, che questa volta prende come obiettivo i migranti. Bad things will happen. A lot of bad things will happen. There will be attacks. Ci saranno, dice Trump, attacchi inimmaginabili, attacchi compiuti da quelle persone che stanno entrando adesso nel nostro paese, dice in un'intervista radiofonica, in cui pronostica un nuovo 11 settembre, provocato questa volta dai rifugiati in arrivo dalle zone di guerra. Non hanno soldi, ma hanno telefonini. Chi gliele paga le ricariche? Hanno cellulari con la bandiera dell'ISIS, dice Trump. E siamo di nuovo in Italia con la cronaca. Purtroppo un nuovo ennesimo femminicidio a Firenze. Una donna e un uomo, lei 31 anni, lui 33, sono stati ritrovati morti nella notte in una Citroen bianca nel campo delle Coppiette, a pochi metri dal fiume Arno. A Firenze gli investigatori hanno appurato che si è trattato di un omicidio-suicidio nel solito modo. Lui aveva annunciato con un messaggino a un amico che l'avrebbe ammazzata perché lei lo aveva lasciato. Poi lui aveva incontrato la donna, il nuovo compagno, augurandogli il meglio. Poi nell'auto l'ha massacrata, coltellata e si è suicidato. E poi c'è stato un assalto nel tardo pomeriggio a un portavalori sulla A14. Il comando è entrato in azione sull'autostrada nel Cesenate per assaltare un furgone portavalori. Era formato da almeno 6 uomini che hanno sparato numerosi colpi. Sul posto la polizia sta ancora repertando i bossoli. I banditi sarebbero fuggiti sulla carreggiata opposta a quella del colpo in direzione sud, tra l'altro incendiando anche varie macchine. La procura di Forlì indaga per rapina aggravata. E poi per il calcio, la soluzione nell'ambito del processo per il calcio scommesse di Antonio Conte, che dice: ho sofferto per un accostamento, mi sono vergognato per essere stato accostato al calcio scommesse, finalmente è finito un incubo. Anche di questo poi torneremo a parlare. Intanto voglio dare uno sguardo prima della viabilità ai vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effettonotte, a proposito del quesito che vi ho sottoposto questa sera, visto che Alfano, ministro dell'Interno, nei giorni scorsi aveva proposto di votare alle elezioni, ma anche al referendum, a tutte le prossime elezioni, insomma non solo a domenica ma anche il lunedì, come si faceva fino a qualche anno fa. Ha trovato subito sostenitori e detrattori, però oggi in Consiglio dei Ministri ha detto: vabbè, vedo che ci sono polemiche, allora lasciamo le cose come stanno. Voi che cosa avreste preferito? Votare anche di lunedì o ritenete che sia giusto votare solo domenica, risparmiando, anche se Alfano dice non erano le cifre che avevano sparato? Andrea da Udine scrive: dov'è il risparmio? Si vota in un giorno ma lo spoglio avviene il giorno dopo, gli scrutatori vengono pagati per due giornate. Sì, anche se allestire scuole eccetera comunque ha un costo ulteriore, non è soltanto questione di scrutatori. Andrea, Carlo dice: Roberta, in un paese normale si vota solo un giorno, soprattutto la domenica, quello di votare in due giorni è solo una cosa italiana, dice Carlo. Perché non votiamo un giorno feriale come altri stati? Propone un altro ascoltatore. Gianni D'Asti invece scrive: cara Roberta, non vado più a votare in ogni caso. Forse male, Gianni. Ciao. Giulio, a priori contro l'Angelino Abbronzato, quando mai Alfa non ha parlato saggiamente? Poi Costantino dice: chiedi qualcos'altro di più serio, chi vuole votare lo fa anche di notte, dice Costantino, perché Alfano diceva: io volevo estendere a un giorno in più di modo che si potesse contrastare l'astensione. Continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Tra poco cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che io, Roberta Giordano, vi ricordo tra pochissimo. Intanto vi ho fatto appena adesso, come sempre, il riassunto della giornata. Cominciamo adesso a entrare un po' nel cuore degli argomenti, dei vari temi di questa sera, cominciando tra poco dal vertice che c'è stato a Vienna sulla Libia. Poi parleremo anche del Papa, del fatto che abbia pungolato nuovamente, sia tornato a pungolare i vescovi su soldi e potere. Poi molti altri argomenti, però ancora uno sguardo ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 a proposito della preferenza di votare su due giorni alle elezioni, domenica e lunedì, oppure solo domenica. Alfano aveva proposto la scorsa settimana di poter votare anche lunedì, ma oggi al Consiglio dei Ministri è stato deciso diversamente. Dice questa ascoltatrice, ascoltatore: la domenica molti vanno fuori e alla fine per pigrizia non vanno a votare. Era una buona idea quella del lunedì. Silvana, dalla provincia di Genova: per me meno si vota meglio è, comunque trovo perfetto un solo giorno, dice Silvana. Giovanni: dobbiamo votare solo un giorno, ma tutto il mondo vota in un giorno e molti, Stati Uniti e Gran Bretagna, anche nei feriali. Basta assurdità italiana e piuttosto accorpare più votazioni, referendum, politiche regionali, eccetera. Ne parleremo anche di questo argomento più tardi, però intanto vi ricordo le notizie più importanti. Per l'appunto, controordine sulle comunali, si voterà solo domenica. Intanto Renzi all'attacco sul referendum di ottobre e c'è stato oggi anche uno scontro sulla questione delle adozioni. Vertice a Vienna sulla Libia, Sarraj dice: non mandateci truppe, dice il primo ministro libico, ma un alleggerimento dell'embargo sulle armi. Il Papa ai vescovi: siate semplici, no ai beni non necessari e buttate le vostre ambizioni al rogo, tenete solo ciò che serve per la fede. Calcio scommesse, Antonio Conte è stato assolto, lui dice: è la fine di un incubo. Assalto, un portavalori sulla A14, banditi in fuga, spari e auto date alle fiamme al casello di Cesena Sud. Hillary Clinton, che punta forte sul marito Bill, dice: sarà lo zar dell'economia se io vincessi. Poi c'è stata la contro-OPA, controfferta su RCS, soci anti-Cairo fanno fronte con Bonomi e paura per Sinead O'Connors, la cantante, che ha 49 anni, una delle sue canzoni più famose, sentita all'inizio degli anni 90, è scomparsa da 24 ore a Chicago, è uscita in bicicletta ieri mattina alle 6, non è mai tornata. Occupiamoci però adesso della Libia, protagonista oggi a Vienna della conferenza convocata da Stati Uniti e Italia per cercare una soluzione alla crisi politica della Libia che va avanti ormai da tanto tanto tempo e affrontare anche l'avanzata dell'ISIS. Kerry, il ministro degli esteri praticamente americano ha detto: cercheremo di revocare l'embargo sulle armi e quindi di poter fornire armi alla Libia. Gentiloni, ministro degli esteri italiano, ha detto: siamo disponibili ad addestrare ed equipaggiare le forze militari libiche. Sentiamo un passaggio del ministro Gentiloni. Aver deciso che la Libia rimane unita, non si alimentano divisioni, si combatte il terrorismo da parte dei libici, non con interventi, o almeno non con interventi sul terreno, di forze straniere, e aver deciso che questo lo si fa tenendo insieme le diverse componenti, ma attorno al governo di accordo nazionale, credo che sia un risultato importante. Gentiloni, sulla possibilità o meno di intervenire, ha detto: non interverrà nessun esercito straniero, e poi ha detto però quale potrebbe essere un ruolo, per esempio, dei soldati italiani. Avendo loro 2 o 3 giorni fa costituito la guardia presidenziale, che vorrebbe essere, diciamo, una prima nocciolo di forze militari libiche, nelle prossime settimane ci chiederanno anche una collaborazione sul piano dell'addestramento, è probabile, e se ce lo chiederanno noi siamo pronti certamente a collaborare. E su questo tema coinvolgo subito Arturo Varvelli, responsabile dell'Osservatorio sul terrorismo dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, grande esperto di Libia. Buonasera Varvelli. Buonasera a voi. Tra l'altro la ministra Pinotti, ministra della Difesa, proprio parlando all'ISPI oggi, ha detto: in realtà non è mai stata prevista la partenza di nessuno, perché più volte, no, si è detto che i soldati italiani erano più o meno pronti a partire. Dice: non c'è stata alcuna decisione diversa da quella che avevamo già preso. Beh, è così se guardiamo la storia recentissima, diciamo, delle dichiarazioni dei vertici italiani sul caso libico. Se torniamo un po' più indietro e torniamo alle dichiarazioni dell'anno scorso, certamente alcune sono state inopportune, perché ventilare ipotesi di numeri, seppur del tutto teoriche, naturalmente crea delle aspettative sul campo interno, crea delle aspettative nei libici e crea aspettative nella comunità internazionale. Quindi certamente la linea dell'Italia è da qualche mese molto coerente, o più coerente del passato. L'Italia ha sostenuto negli ultimi mesi che non ci saranno interventi militari esterni, che non ci saranno interventi diretti, ma che tutto dovrà passare dal, diciamo, rafforzamento, prima creazione poi rafforzamento di un governo di unità nazionale. Per certi versi alcuni risultati sono stati ottenuti, perché bisogna ricordarlo, l'insediamento del Consiglio di Serragi è un buon punto di partenza su quale l'Italia può vantare dei meriti, certamente, però rimane tale, cioè rimane un punto di partenza, ancora c'è tutto da ricostruire in Libia sostanzialmente. Ecco, quindi Varvelli ha già risposto a una cosa che avevo in mente, di chiedere a questo punto a che livello siamo del percorso di pace, di stabilizzazione del paese. Sta dicendo che c'è solo un punto di partenza, siamo ancora, sì, a livelli ancora... È un punto di partenza iniziale, perché certamente ci sono ancora molte fazioni da mettere insieme, da rimettere insieme. Mi pare che si sia fatto un buon lavoro. Il generale Paolo Serra e l'inviato delle Nazioni Unite Martin Kobler mi sembra che abbiano lavorato bene in Tripolitania, grazie anche naturalmente al supporto del governo italiano, che è in prima linea in questo. Mi pare che il problema sia ancora il generale Haftar in Cirenaica, ma mi sembra anche che diversi partner, dall'Egitto a alcuni partner nostri europei, in particolare la Francia, non abbiano rinunciato al generale Haftar, e questo naturalmente comporta il fatto che è rimasto una pedina legittima, o se è stato riaccreditato come una pedina politica legittima all'interno del quadro politico libico, e questo vuol dire che in qualche maniera si dovrà trovare una mediazione, un accordo di qualche tipo tra le componenti della Tripolitania e quelle della Cirenaica guidate da Haftar. Non è una cosa semplice. Già, un processo ancora lungo, sembra. Certo. Grazie Arturo Varvelli dell'ISPI. Grazie. Grazie a voi. Grazie, buona serata. E adesso ancora qualche vostro messaggio. Giuseppe, per esempio, dice sulla pagina Facebook: spendere 600 milioni in più per garantire un giorno in più non serve, chi non vuole votare non vota nemmeno il secondo giorno. Effettivamente, Giuseppe, però non sono proprio 600 milioni, sembra, fino a qualche giorno fa si dicesse 120 milioni in più si spenderebbero, oggi Alfano ha detto lui che per le comunali sarebbero stati 5 milioni in più e per invece il referendum 18 milioni in più, insomma un ballo di cifre come sempre. Anselmo dice: io farei votare gli italiani per attraverso gli uffici postali, certificando e tutelando la privacy degli elettori, spalmando il voto in 2-3 giorni, addirittura con la presenza radicata degli uffici postali avremo un forte risparmio economico e sicuramente un'adesione elettorale straordinaria. Queste sono le vostre idee, eh? Ogni tanto arrivano qua delle proposte. Ilaria dice: quando ero ragazza si votava sempre domenica e lunedì e io pigro non andavo il lunedì, tempi di vacche grasse probabilmente, dice così con sincerità Ilaria. Nella vostra riflessione sul rinnovamento del clero rientra anche il capitolo che riguarda la gestione delle strutture e dei beni. In una visione evangelica evitate che di appassantirvi in una pastorale di conservazione che ostacola l'apertura alla perenne novità dello Spirito. Mantenete soltanto ciò che può servire per l'esperienza di fede e di carità del popolo di Dio. E qui continua l'iperattività invece innovativa del Papa. Solo la scorsa settimana abbiamo parlato anche qui effetto note dell'apertura di Francesco al diaconato per le donne, che è il primo gradino, no, del percorso per cui poi si diventa sacerdoti, vescovi eccetera eccetera, e già oggi giovedì, venerdì che aveva parlato di questo, già oggi il Papa striglia i vescovi, avete sentito, su denaro e potere, li ha pungolati sui beni economici, sul ruolo nella società, e così dicendo oggi ha aperto l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, della CEI, delineando tramite l'identikit del sacerdote esemplare una chiesa che deve lasciar bruciare, ha detto, nelle fiamme ambizioni di carriera, i potere, narcisismi e gelosie clericali, ha detto, una chiesa che deve coinvolgere i laici, che rifugga corruzione e mondanità, che non si deve scandalizzare per la fragilità dei fedeli, non deve rimanere fredda alle esigenze come un burocrate o come un funzionario anonimo. Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, bentornato. Grazie a te Roberto. Poi ha parlato anche il Papa dell'Italia, che vive un profondo cambiamento culturale, quindi che anche i preti, i sacerdoti, insomma, si devono adeguare, devono capire anche lo sconforto, la mancanza di riferimento. Quindi continua, insomma, nella sua linea di rinnovamento della Chiesa il Papa. Sì, diciamo che oggi in particolare ha parlato la Chiesa italiana. Il Papa è vescovo di Roma e primate per l'Italia, oltre, certo, che diciamo capo della Chiesa universale. Quindi diciamo che sull'Italia il Papa ha una sua, come dire, voce anche ancora più, diciamo, specifica. Il tema è che la CEI, lui da quando è stato eletto, cioè 3 anni e un po' fa, diciamo, ci è tornato spesso dicendo: non dovete perseguire il potere, non dovete essere dei vescovi funzionari, non dovete essere dei chierici di Stato, non dovete scendere in piazza ad appoggiare istanze politiche, dovete discutere delle questioni politiche, ma non vi dovete, diciamo così. Papa in questi anni, ma oggi anche in particolare con un'altra frase, ha archiviato, o perlomeno diciamo nella sua testa ha archiviato, poi i vescovi italiani in qualche modo, in qualche caso resistono, ha diciamo una stagione che era quella non solo del, diciamo così, del rapporto con il potere economico, ma soprattutto quello politico, per cui si contrattavano le leggi, soprattutto con la destra, e si portavano in fondo le leggi che si volevano o si facevano fallire il referendum. Oggi ha parlato di questioni economiche, però ha anche parlato di questioni politiche, dicendo i preti non devono avere un'agenda, i famosi valori non negoziabili di cui anche te spesso ti sei occupata, e non esistono più nel vocabolario di Bergoglio. E poi c'è la questione, appunto, ritorniamo alla questione economica. Noi oggi, domattina, sul Sole 24 Ore, chi lo vada a vedere, abbiamo fatto una lunga inchiesta su quali sono e quanti sono questi beni economici in già Italia, che sono bassi, ma anche, come dire, un retaggio storico, diciamo così, non sono solo frutto di questioni recenti, ma sono beni, diciamo, importanti. Carlo, prima di lui, forse giusto nei suoi 33 giorni di pontificato, giusto Papa Luciani aveva fatto un po' accenno a queste cose, o anche i papi che ci sono stati precedentemente a... Allora, Luciani sicuramente, Luciani sappiamo sicuramente che voleva modificare un po' di cose, diciamo chiudere lo IOR o qualcosa di simile, ma eravamo appunto nel 78, stiamo parlando di un'era geologica e mezzo fa. Che Papa straordinario, però, sì. Esattamente. E vuoi dire, questo tema non l'ha mai avuto in testa, perlomeno non in maniera così forte, anzi, nel senso che Wojtyla faceva il prete, cioè il Papa, non è che facesse il finanziere, però lui con questo mondo ha dovuto dialogare, col mondo americano, la famosa Centesimus Annus, che è una enciclica, ora senza entrare nello specifico, insomma, diciamo che Wojtyla ha avuto un rapporto diverso con questo tema, oggettivamente molto diverso. Ratzinger ha avuto un rapporto con questo tema di riforma, la famosa riforma l'ha avviata Ratzinger, e questo è un grande merito che gli va dato. Naturalmente l'ha avviata da Ratzinger, con tutte, diciamo così, le complessità di quel pontificato. Questo Papa è arrivato, se possiamo usare una metafora, come un trattore che in qualche modo ha tentato di spianare tutto, ma poi ha tentato. ci sta provando, in qualche caso ci sta riuscendo, altro c'è queste enormi resistenze che ancora c'ha, ma che però sono identificabili e identificate, su cui lui, diciamo, agisce quotidianamente. Quindi al prossimo intervento di Papa Francesco, Carlo Maroni. Ah sì, sì. Diciamo 2 o 3 giorni e poi arriverà un altro intervento sicuramente. Aggiorniamoci allora. Aggiorniamoci. Grazie Carlo Maroni. Grazie a te Roberto. Ciao, buona serata. Ciao. E ancora i vostri messaggi, dice questa ascoltatrice, ascoltatore, mettete almeno un nome d'arte, ogni tanto questi sms così anonimi, mentre sulla pagina Facebook poi vi firmate anche spesso su WhatsApp, dice sarebbe votare online, bisognerebbe votare online come si fa nel Movimento 5 Stelle, ah, questo è Stefano, mette il nome, mentre un altro c'è una proposta di voto anche per il lunedì, deriva probabilmente da una mentalità nordafricana, non certo nord-europea, così bacchetta questo ascoltatore. Poi c'è Nino, ho quasi 58 anni, non ho mai votato il lunedì, un giorno è sufficiente. Luciano, quando inizieremo a votare tramite rete, magari seduti comodamente nel proprio divano? Enea scrive, chi non vuole votare alla domenica non vota nemmeno a lunedì, è dura da capire. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 per dire se siete d'accordo sul fatto che si sia concluso alla fine oggi che si voterà, si continuerà a votare solo domenica e non domenica e lunedì come voleva proporre il ministro Alfano. A tra poco. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Avete visto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che effetto ha fatto Effetto Notte su Sinead O'Connor? Ne parlavamo all'inizio, l'ho fatta sentire proprio all'inizio come incipit, perché diciamo che mezzo mondo era preoccupato per la sua scomparsa. Era scomparsa da domenica. In questo momento arriva la notizia che Sinead O'Connor, la cantante irlandese, è stata ritrovata viva. La polizia dice è al sicuro. Era scomparsa ieri mattina nel suo borgo di Wilmette e adesso finalmente insomma è di nuovo al sicuro. Tutti erano preoccupati perché più volte ha minacciato il suicidio. Bene, diciamo archiviata in modo positivo questa notizia. Roberto Giordano sempre con voi. Riprendiamo allora con gli argomenti dopo aver fatto il riassunto della giornata. Abbiamo parlato anche del vertice per la Libia di oggi a Vienna e poi delle ulteriori iniziative di rinnovamento della Chiesa da parte del Papa. Adesso vi ricordo tra pochissimo le notizie più importanti e poi cominciamo anche con gli altri argomenti. Volevo leggere ancora qualcuno dei vostri messaggi a proposito del voto su 2 giorni o su 1 giorno, anche se è stato deciso ormai che è domenica, si vota solo domenica. Dice qualcuno, Alfonso da Verona, mantenere 1 giorno per votare ma accorpare più votazioni, aumentare l'orario di voto dalle 6 alle 24, dice addirittura Alfonso, vedo varie proposte da parte vostra. Massimo dice, si vota troppo e si tolgono ulteriori preziosi giorni di scuola agli studenti, complicando non poco la vita dei genitori che devono prendere permessi al lavoro nel caso di bambini, sempre che lavorino. Siamo al degrado della società, al più grande dissolvimento, 1 giorno basta, magari telematico o serale. Queste le vostre proposte e anche le considerazioni, per esempio, di chi ha dei figli che devono andare a scuola. Bene, adesso direi allora di ricordare quali sono i titoli più importanti e poi riprendiamo con i vari temi. Elezioni e referendum, appunto Alfano fa dietro fronte per quello che definisce polemiche strumentali, dunque si voterà solo domenica. Il vertice sulla Libia, nessun invio di soldati nel paese nordafricano, ma un alleggerimento dell'embargo sulle armi. L'Italia pronta ad addestrare le truppe di Tripoli. Il richiamo del Papa ai Vescovi, ne abbiamo appena parlato, rinunciate ai beni non necessari, dice, e bruciate sul rogo le ambizioni. Scontro sulle adozioni, il ministro della giustizia Orlando risponde al ministro Costa e dice, i giudici sono autonomi nell'interpretare le norme. Roma, Paola Basilone è la nuova prefetta della capitale e poi l'ennesimo femminicidio a Firenze. Un uomo ammazza l'ex moglie con 30 coltellate perché lo aveva lasciato e poi si suicida. Assalto a un portavalori sulla A14, spari e auto date alle fiamme, i rapinatori sono in fuga. Editoria contro OPA su RCS, soci anticairo fanno fronte con Bonomi e per il calcio scommesse assolto Antonio Conte. stiamo lavorando ad un'altra cosa che ho il piacere di comunicare qui a Milano, perché io intendo proporre al governo di votare anche il lunedì, sia il lunedì del primo turno, ossia il lunedì del 6, sia il lunedì del 20 di giugno. Questa era la proposta del ministro Alfano qualche giorno fa, proprio giorni della scorsa settimana. Diceva: io vorrei proporre di far votare lunedì, e era ancora un po' forte di questo suo proposito oggi al Consiglio dei Ministri, però pare che sia andata diversamente, come sicuramente ci conferma la nostra Betta Fiorito in diretta da Roma. Ciao Betta. Ciao, buonasera a tutti i radioascoltatori. Noi ci aspettavamo tutti quanti che il Consiglio dei Ministri, che era stato convocato oggi, decidesse appunto di avallare questa proposta di Alfano, di votare domenica e lunedì, quindi a lunedì alle 3 del pomeriggio sarebbero state chiuse le urne, e invece alle 6 c'è stato un flash che Alfano aveva cambiato idea, e aveva cambiato idea per evitare polemiche e strumentalizzazioni, e quindi c'è stato una retromarcia, un dietrofront, un controordine, insomma. Qualcosa che non è andato bene. Quindi ha cambiato idea o gliel'hanno fatta cambiare l'idea, secondo te, Betta? Ma secondo me ha cambiato idea. Allora, io penso che lui ha proposto questa cosa, e tutto sommato l'ha proposta perché era intenzione di tutto il governo, no? E poi ha cambiato idea perché c'erano state le strumentalizzazioni. Andiamo al punto, sì, perché sennò la gente non capisce. Allora, il problema è questo: votare in due giorni ovviamente costa di più. Si era messo di traverso l'ex premier Enrico Letta, che aveva detto: ma come, io ho fatto l'election day per fare risparmiare 120 milioni di euro. Alfano ha detto: è vero, si risparmia se si vota in un giorno solo, però non è che verrebbe a costare tantissimo votare per due giorni per le amministrative, perché verrebbe 5 milioni di euro in più e 18 milioni di euro per il referendum. Sì. Il problema è che siccome c'è un momento di poco interesse degli italiani nei confronti della politica, quindi c'è una scarsa affluenza elettorale, se si vota in due giorni magari si riesce a raccoglierne qualcuno di più. Sì, insomma, perché non è una bella democrazia dove votano poche persone, no? Bisognerebbe andare a votare come si votava un tempo, con l'80%, c'è una questione entusiasmo, che oramai non ci sono più. Niente. L'altra cosa però è quello che nascondeva il disegno del governo secondo le opposizioni. Le opposizioni attaccavano il governo perché in realtà non è che avevano molto in mente la tornata delle amministrative, ma piuttosto il referendum sulle riforme costituzionali. E lì emergevano questi sondaggi che poi sappiamo bisogna sempre prendere molto con le molle, no? In cui il famoso fronte del no alla Costituzione, che prevederà la fine del bicameralismo paritario con un Senato di 101 senatori eletti nei consigli regionali e quindi non a carico dei cittadini, diciamo così, il fronte del no, che dice di no perché c'è il rischio di autoritarismo, è molto più compatto e sembra che sia molto più determinato ad andare a votare. Il fronte del sì è quello un po' più democristiano, si direbbe in altri tempi, no? Quindi va un po' invogliato. Allora Matteo Renzi forse ha pensato: vabbè, se facciamo votare in due giorni forse riusciamo a far sì che questo referendum passi in modo più tranquillo. In realtà questo è sembrato un boomerang, e quindi tutto quanto è rientrato. Il governo sì, diciamo che è sembrato un po' una parodia, se la vogliamo mettere a livello letterario, di una giornata di uno scrutatore di Italo Calvino, dove lui praticamente descrive questo scrutatore di sinistra che vedendo un giorno di pioggia pensa all'epoca che magari forse il PC, all'epoca il PC potrà conquistare più voti, perché l'elettore democristiano è sempre un po' scoraggiato dalla pioggia, un po' più pigro. Ecco, è sembrato veramente ritornare un po' indietro nel tempo, come la letteratura certe volte, no? Ci fa assaporare quello che poi avviene. Insomma, è stata una figura un po' goffa del governo, in cui c'è sempre la battaglia referendaria. Matteo Renzi dice: non sono io a personalizzare il referendum. No, Betta, su questo ti interrompo, perché io voglio far sentire che cosa ha detto per esempio Renzi il 12 gennaio 2016, quindi 5 mesi fa, cosa che ha continuato a ripetere praticamente fino a ieri, se vogliamo essere onesti. Sentiamo. Facendo, credo, un gesto di coraggio, ma anche di dignità, io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica. che magari è un incentivo per tanti per andare a votare contro. Perché però lo dico? Non è il capisci Betta, lui aveva già detto qualche mesi fa, se io perdo con il referendum, se io perdo allora vado a casa, quindi li teneva. E adesso dice, poi però, i maligni dicono che magari forse ha pensato pure di estendere a 2 giorni la votazione però poi se l'è rimandato. Però diciamo che lui adesso ha detto non è così. Non è così, perché sai, in politica oggi si dice una cosa, ma si può cambiare idea, è democrazia, e lui è, diciamo così. E lui ha detto, non è così, il problema del fronte del no è che loro mi attaccano perché sono esigui sugli argomenti. Cioè il fatto che praticamente dice, ma allora questo Senato lo vogliamo trasformare oppure no? Allora ha cominciato a capire Matteo Renzi che non deve dire che lui va a casa o non già, va a casa. È rischioso, è molto rischioso, quindi adesso anche lui è rischioso per il governo e questo è un problema suo. Però insomma, per gli italiani, noi che siamo giornalisti dobbiamo dire, si va a votare per un referendum che radica la seconda parte della Costituzione, attenzione bisogna sempre, che è l'ordinamento dello Stato. Allora, a chi va bene un bicameralismo paritario come oggi, con un iter molto farraginoso delle leggi in cui si ricorre alla decretazione d'urgenza, però c'è un ampio dibattito parlamentare, vota sì. Se invece si vuole snellire l'iter delle leggi, si vuole però comunque un pochino, ovviamente si dà più potere all'esecutivo, allora si vota sì. Insomma, voglio dire, nell'altro caso si vota no. No, ma tanto Betta, su questo abbiamo tempo di ritornare, perché fino a ottobre, però era giusto per dire insomma che adesso dice no, che personalizza, al di là di come si voti poi a ottobre, e in questo caso va detto sinceramente che l'ha detto più volte, se perdo vado a casa, quindi l'ha un po' personalizzato lui. Betta Fiorito, grazie da Roma. Ciao Betta. Grazie a voi, mi raccomando, continuiamo a seguire l'opera buffa del governo italiano. Quello, ciao, non c'è dubbio, intanto aggiorniamo chi sta viaggiando. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice, anche Roberta Giordano con voi, che vorrebbe leggere molti altri vostri messaggi, ma devo correre un po' adesso ricordandovi le notizie principali e poi andando ai prossimi temi. Controordine sulle comunali, ne abbiamo appena parlato, si voterà soltanto domenica. E poi vertice a Vienna sulla Libia, Serraj, il primo ministro di Tripoli, dice non mandateci truppe, ma un alleggerimento dell'embargo sulle armi. Poi il Papa, i Vescovi, che dice siate semplici, no ai beni non necessari e mandate le vostre ambizioni a rogo. E poi la buona notizia, che è stata ritrovata in serata sana e salva la cantante Sinéad O'Connor. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Brando Benifei. Età: 30. Nato a La Spezia. Eletto in circoscrizione nord-ovest. Con quanti voti? 39.700 circa. Partito politico: Partito Democratico, Partito del Socialismo Europeo in Europa. Segni particolari: passione politica per cambiare le cose in Europa. Quante lingue parla? Bene l'inglese e un pochino francese e tedesco, oltre all'italiano. Competenze europee in 10 parole. Lavoro, affari esteri, diritti umani, giovani, disabilità, diciamo Erasmus, politiche sociali, indennità di disoccupazione europea, infrastrutture, porti, i rifugiati. Benvenuto nella Youzone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Rifugiati, banco di prova per l'Unione Europea. Quali le proposte concrete per l'integrazione? Bisogna mettere in comune le buone pratiche, per esempio dell'Italia, della Germania, della Svezia, e rafforzare gli investimenti del Fondo Sociale Europeo. L'utilizzo dei fondi europei per il sociale per i rifugiati non deve essere fatto a scapito dei gruppi vulnerabili a livello locale, le famiglie in difficoltà, i disabili, i giovani, i disoccupati, quindi è importante da allocare più risorse per le politiche sociali. Si occupa di strategia UE in Asia centrale, che tradotto vuol dire? Significa cooperazione commerciale, cooperazione nella realizzazione di infrastrutture comuni e nella lotta al terrorismo, essendo paesi un po' cerniera con un'area medio orientale piuttosto turbolenta e paesi che vivono essi stessi l'infiltrazione terroristica. La cooperazione con l'Europa è forte, la vedono come un partner importante, quindi noi lavoriamo per rafforzare questi rapporti. L'Europa vista da fuori? È un'Europa che è ancora in grado di garantire uno spazio di libertà, di sicurezza, con tante difficoltà e quindi un po' un modello positivo per molta parte del resto del mondo, un po' acciaccato, un po' che ha bisogno di una forte revisione. L'Europa vista da dentro? Beh, vista da dentro è un'Europa un po' paralizzata, io lo dico da parlamentare ormai a quasi 2 anni dall'inizio della legislatura. È tra i deputati più giovani del Parlamento europeo, vantaggio o svantaggio? Sicuramente all'inizio è stato un po' uno svantaggio, se vogliamo, è una sfida, e quindi ho dovuto anche studiare tanto, insomma nella commissione lavoro mi sono trovato tanti ex ministri del lavoro, idem ministri degli esteri in quella esteri, e quindi questo mi ha spronato a dover soprattutto all'inizio davvero studiare tanto, perché appena arrivati si è partiti subito, non è che c'è un periodo di decompressione. Tra 10 anni come si vede? Spero di poter guardare indietro dicendo ho fatto la mia parte e sono riuscito a contribuire a un successo per il nostro continente. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Ritmo c'è qui, Dario Ricci, abbiamo svelato in anteprima mondiale questo inno degli europei. Speriamo che suoni solo quello quest'estate in Francia, sicuramente starà sentendo della buona musica per rilassarsi un po' e magari brindando anche Antonio Conte. Certamente. Che oggi è stato assolto con formula dubitativa dal GUP di Cremona dall'accusa di frode sportiva per la presunta combine, la ricorderai, di Albino Leffe Siena del 2011, quindi Conte assolto, esattamente, la famosa, la madre di tutte le inchieste sul calcio scommesse. Conte così potrà preparare al meglio l'avventura Euro 2016, oggi sono usciti anche i convocati per il primo stage della nazionale e anche il suo prossimo futuro sulla panchina del Chelsea a Londra. Questa condanna potenziale pendente non era stata certo sottaciuta dalla stampa britannica. Ora molti si chiedono e si domandano, assolto Conte, allora l'inchiesta di Cremona che fine fa? Beh, in realtà è stata comunque un'inchiesta importante, perché vanno invece a processo nomi importanti del nostro calcio come Signori, Mauri e Doni. La prima udienza, lo ricordo, è fissata per il 6 dicembre del 2016 di quest'anno, e poi soprattutto questa indagine durata 4 anni ha comunque svelato un sistema corruttivo, no? Sai bene, questa banda degli slavi che entrava fin nei ritiri per corrompere i giocatori e trovarli compiacenti, e la testa di ponte, anzi la base operativa che faceva capo, speriamo lo faccia più, a Singapore, insomma. C'è ancora da lavorare, c'è ancora da capire, ci sono ancora posizioni che devono invece arrivare a sentenza. Chiaro, grazie Dario Ricci. Intanto brinderà appunto Antonio Conte, che ha detto fine di un incubo. Invece qui è fine di Effetto Notte, noi ci sentiamo giusto alle 22. Ciao Dario. Ciao.